6A. Ascolta e controlla. 1. Sai quando comincia il corso? Mi dispiace, non lo so. 2. Sapete quando apre la banca? Sì, lo sappiamo. 3. Dove andate a fare la spesa? Andiamo al supermercato. 4. Dove vai dopo la lezione? Vado a casa. 5. Perché vieni qui ogni giorno? Vengo qui per passeggiare. 6. A che ora venite domani? Veniamo qui domani a mezzogiorno.